Purtroppo per noi che un po' che seguiamo queste vicende non c'è niente di nuovo e niente di strano, nel senso che è esattamente quello che hanno sempre voluto fare, cioè la pulizia etnica totale e completa della Palestina, cioè di eliminare il più alto numero possibile di residenti, sostituendoli con altri che vengono da fuori, cioè con ebrei o più o meno ebrei che vengono ad abitare in Israele grazie a queste leggi un po' razziste che loro hanno approvato e permettono solo agli ebrei di autodeterminarsi nella terra di Israele, come la chiamano loro. Per cui non c'è niente di nuovo, purtroppo la novità invece è che adesso hanno avuto carta bianca, via libera completa da parte del presidente americano, il quale evidentemente ha già deciso, già che nell'ambito dei rapporti nuovi con la Russia si spartiscono l'Ucraina da una parte e dall'altra Israele può fare quello che vuole, anche perché deve pagare un debito molto pesante nei confronti della comunità sionista americana che ha finanziato pesantemente la campagna elettorale di Trump stesso. Per cui Netanyahu adesso ha mano libera, avendo un governo fascista come non si è mai visto neanche in Israele, riescono a portare avanti molto velocemente quello che prima facevano lentamente. Siamo alla Nakba 2.0. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, insomma, del ruolo che ha, ma l'Europa in tutto questo, in tutti questi mesi è stata piuttosto silente, o anzi ha continuato il business appunto di armi con Israele. Ma certo, l'Europa non è che inesistente, come dicono, purtroppo esiste, nel senso che questa Europa è connivente, ma fa affari d'oro con Israele. Pensa che solamente nel programma che si chiama Horizon, che è quello che finanzia la ricerca, che finanzia moltissime ricerche anche di tipo militare, tra l'altro, Israele prende più finanziamenti dell'Italia, per esempio, da questo programma, mentre l'Italia è uno degli stati finanziatori, dei più grossi finanziatori dell'Unione Europea, e Israele ne trae beneficio senza colpo ferire, solo perché partecipa a dei progetti insieme ad altri partner, tra cui molte università italiane. E questo è un esempio. Israele ha un rapporto economico speciale con l'Europa e viene trattata come se fosse un paese europeo, invece di essere considerato un paese mediterraneo o orientale o asiatico, come dovrebbe essere. E di questo ovviamente ne trae profitto l'economia israeliana che, nonostante tutti gli aiuti che sta ricevendo, non solo militari, sta andando a catafascio perché questa guerra sta chiaramente distruggendo la Palestina, ma danneggiando grandemente anche l'economia israeliana stessa. In questi mesi, in questi anni, le mobilitazioni non si sono mai fermate e anche appunto il coordinamento Bologna per la Palestina, la campagna BDS ha degli appuntamenti nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Quali sono? Noi abbiamo fatto decine di iniziative su Bologna, ma anche in tutta Italia ce ne sono state centinaia e centinaia e nel mondo, mobilitando milioni di persone, ma è evidente che le democrazie sono democrazie a parole, per cui quello che vuole la gente, quello che vogliono i cittadini, non importa assolutamente alle elite politiche. A Bologna abbiamo diverse iniziative anche questa settimana e noi oggi pomeriggio alle 17:30 al Centro Costa abbiamo un incontro sull'industria bellica dell'Emilia Romagna, che è anche essa coinvolta nella fornitura di armi a Israele, per cui denunciamo questa cosa. Poi abbiamo un altro appuntamento l'8, c'è un importante incontro all'università nel pomeriggio con il professor Mariniello, che è un esperto di diritto internazionale. Il 9 abbiamo due incontri, uno pubblico e uno in piazza, praticamente in occasione di un'iniziativa internazionale contro la guerra a Gaza, e un altro anche a Rastignano, presso l'ARCI, dove facciamo un'altra iniziativa. E le iniziative purtroppo lasciano il tempo che trovano, servono molto anche a raccogliere fondi per coprire le spese di quei poveri bambini che abbiamo adesso a Bologna, che sono stati amputati e alle quali sono state applicate delle protesi. Adesso stiamo assistendo anche loro ed è veramente vergognoso che, tra l'altro, tutto questo lavoro viene fatto solo da privati perché lo Stato, il governo, non ha messo una lira se non un simbolico trasporto di un piccolo gruppo di bambini che è stato solo per far vedere un po' la cosa in televisione. E noi portiamo avanti anche questa attività insieme ai sanitari per Gaza, insieme ad altri volontari, tutta gente bravissima, tutta gente che si sta dando da fare, sostituendosi a quello che sarebbero i doveri degli stati.